Buon pomeriggio a Tommaso Ussardi, che è in collegamento con noi, il direttore d'orchestra, presidente dell'Associazione Senza Spine e il direttore artistico del Mercato Sonato. Buon pomeriggio Tommaso, ciao. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Siamo qui per parlare appunto della nuova programmazione appena uscita del Mercato Sonato, che è iniziata qualche giorno fa, il 25 settembre, e che proseguirà per tutta questa nuova stagione. Esattamente. È una stagione molto importante per noi perché è il segnale di ripartenza, un segnale che vogliamo dare nonostante le difficoltà, le incertezze, con una rassegna insomma di circa 20 progetti diversi, tutti progetti culturali ovviamente, dove la musica è al centro, perché il Mercato Sonato insomma per noi è la casa della musica. E per musica intendiamo veramente tutti i generi, anzi vogliamo superare anche il concetto di genere. Infatti guardando il nostro calendario di ottobre si vede che è proprio una centrifuga di espressioni artistiche diverse. A proposito di questa centrifuga, infatti, leggendo, sfogliando tutto il programma di ottobre, si leggono appunto vari progetti. Ti chiedo quali sono i progetti che caratterizzano questa nuova programmazione. Allora abbiamo il mercoledì, come ormai per tradizione, classica da mercato, ovvero musica classica ma all'interno di uno spazio molto diverso dagli ambienti dove di solito si ascolta la musica classica, ed è un po' la nostra caratteristica maggiore, quindi tutti i mercoledì potete venire ad ascoltare musica magari non abituale ma in un ambiente molto così urbano e diverso dal solito. Poi il venerdì e sabato ci concentriamo su musica un po' più vicina magari ai gusti delle persone che spesso passano dal Mercato Sonato, perché abbiamo l'indie rock, addirittura musica surf, musica manouche, abbiamo musica balcanica, quindi in generale tutta una forma di world music che insomma cerchiamo di portare sempre con artisti molto, molto importanti e rinomati. Poi ad esempio ci sarà, per fare degli esempi, Lucio Leoni, anche il Cook, Gianni Marsiglia, Lion D, quindi anche hip hop, cioè del reggae, abbiamo Radici nel Cemento addirittura in versione unplugged, e Pasquale Mirra, quindi c'è anche del jazz, della sperimentazione. E in particolare, lo dimenticavo tra l'altro, Scarda, insomma artisti anche di un certo calibro. E poi ci tengo a sottolineare tutti i lunedì che ci apriamo alla musica contemporanea di ricerca. Abbiamo una rassegna che si chiama Caustico Lunare, che è gestita dall'Associazione Istantanea, che è appunto un'associazione che si dedica alla musica contemporanea, in collaborazione con il Torrione Jazz Club di Ferrara. E in questa rassegna passano all'interno appunto ensemble di musica contemporanea ma anche DJ di musica elettronica, e abbiamo anche appunto, ospiteremo la Tower Jazz Composer Orchestra il 25 ottobre, insomma tutti i lunedì proprio per partire alla grande con una settimana bella scarica al Mercato Sonato, potete ascoltare della musica. Infine, proprio per chiudere il cerchio, il progetto Diametro, che è un progetto su cui noi stiamo lavorando da praticamente dalla primavera scorsa, un progetto che cerca di mettere in dialogo gli spettatori con gli artisti all'interno di uno spazio culturale quale è il Mercato Sonato. Il progetto si chiama Diametro, è un percorso di formazione, e nelle domeniche del 10 e del 17 vedrà alla sera uno spettacolo proprio dedicato al progetto Diametro. Il primo sarà Fossic Project, un progetto che unisce musica dal vivo e illustrazione su lavagna luminosa, e il 17 invece Ensemble Sudestada, che unisce musica popolare a musica classica con un sapore meridionale legato appunto a colori mediterranei. Quindi un po', questa è un po' quella centrifuga di cui parlavamo. ti chiedo quanto è importante ripartire in un momento storico così particolare, così delicato e anche così incerto, proporre al pubblico una rassegna così fitta e variegata, perché dà comunque segnali super positivi, quindi si percepisce un po' l'attitudine di questi progetti e di tutta la programmazione. Quanto è importante per il mercato suonato ripartire e ripartire così alla grande? Ma per noi è fondamentale, innanzitutto perché crediamo che la cultura sia un bene primario, e essendo un bene primario va salvaguardato, va coltivato e va sostenuto da tutti coloro che credono che la cultura sia un bene primario, quindi primi fra tutti gli operatori culturali, quali noi siamo. E al di là della difficoltà, finché ci saranno un minimo di risorse e di energie, noi dobbiamo tenere aperto. E speriamo che questo segnale venga colto già dai fruttori del mercato suonato, ma anche grazie al passaparola, cercare di alimentare il più possibile proprio il bisogno di vivere gli spazi che purtroppo in questo anno e mezzo sono rimasti chiusi. E questa chiusura ci ha un po' intorpidito, ci ha un po' anche quasi, a volte cioè, mi viene quasi la paura che ci siamo abituati a stare senza cultura viva. Senza cultura che si possa fruire dal vivo. Allora credo e spero che questo segnale, in un momento veramente difficile a livello economico, a livello di chiusure, di muri, insomma tutto quello di cui si parla quotidianamente, tutti i muri che si stanno creando rendono difficile la possibilità di vivere uno spazio culturale che proprio di per sé vuole essere inclusivo e accessibile. Però speriamo che le persone colgano questa difficoltà e si sentano anche in qualche modo responsabili di poter sostenere una cultura dal basso, quale è quella del mercato suonato. Quindi noi ci stiamo provando, abbiamo messo insieme oltre 20 progetti solo nel mese di ottobre, e questo sia perché non vedevamo l'ora di ripartire, ma anche perché siamo convinti che ci sia bisogno di cultura e di riappropriarci di quegli spazi che sono restati per troppo tempo chiuso. Questo sia per gli artisti, ma soprattutto per il pubblico.